Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia in 24 minuti. Per Garibaldi, viva! 1863, la polemica anti-unitaria parte da Roma. E qui a Roma, dove le campane ricordano incessanti che nella città eterna è ancora il Papa Pio IX a regnare sovrano, che bisogna venire per capire almeno una parte di quello che è successo al sud. E cosa manca all'Italia per essere davvero una nazione? Perché Roma è al contempo il teatro delle congiure contro l'unità, il cuore del cattolicesimo mondiale e il rifugio di tanti esiliati legittimisti, in primo luogo della coppia reale di Borbone, titolari spodestati del trono delle due Sicilie. Francesco II e Maria Sofia vivono a Palazzo Farnese e da lì tirano le fila di quelle che per il governo di Torino sono trame anti-italiane, per i legittimisti di ogni angolo del paese e d'Europa sono le linee strategiche della resistenza e della sperata riscossa. In questo va detto però che il principale polo della politica antiunitaria, almeno dal punto di vista culturale, è piuttosto il Quirinale, o meglio la Segreteria di Stato. E infatti il governo della Chiesa, insieme a quello dell'Impero d'Austria, è il più tenace e implacabile avversario politico del nuovo Stato. Lo si è visto da queste parti di recente. Nei mesi di ottobre e novembre, in due successivi articoli, la Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti che è approvata direttamente dalla Segreteria di Stato, ha puntato l'indice contro le conclusioni dell'inchiesta sul brigantaggio portata a termine dalla Commissione Massari. E bisogna dire con argomenti convincenti. Sentite questo passaggio a proposito della giustificazione politica del brigantaggio. Il ladro che mentre in casa e in parte sostenuto dalla violenza delle proprie armi, in parte aiutato dal tradimento dei miei servitori, me ne caccia spietatamente e vi asside padrone in luogo mio. Qual diritto potrà invocare in favore suo se quindi a poco, rifatto animo e messomi in forze, io vengo ad assalirlo nella maloccupata casa e cacciarlo dal non suo nido? È ben vero che la stampa antiunitaria ha qui sui colli romani la sua grande fucina, ma bisogna ammettere che è proprio la Nuova Italia a offrire più di un argomento alla polemica antinazionale. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.